bella questa, eh? John Bon Jovi, su questa canzone saluto il mio carissimo amico Salvo, un bacione Salvo, hai visto, ti ho accontentato, ogni volta mi rimprovera, mi dice sempre non mi accontenti mai, hai visto? Adesso l'ho fatto finalmente, adesso arriva il nuovo singolo di Neffa, Molto Calmo, state molto calmi anche voi, mi raccomando, calma, calma. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Quando il treno se ne va, quando il tempo se ne va, quando tutto se ne va, quando corri incontro a chi con le braccia chiuse non ha occhi più per te, ci sono i segni che si vedono e gli altri che si sentono. Devi stare molto calma, devi stare molto calma, devi stare molto calma. Keep sono sempre con voi, siete all'interno di Semplicemente Insieme, sempre rigorosamente in diretta su CRMP Radio. Crazy bitch, I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. Questa canzone, saluto Federica che ce l'ha richiesta. Beh, adesso parliamo un po' di bibite gassate, no? Dice, questa sempre parla di bibite gassate. Beh, io ne bevo, insomma, c'è un consumo, diciamo, eccessivo un po' di bibite gassate. E a quanto pare, bere tante bevande gassate, specie nella versione light o diet, fa male all'umore. Sarebbe veritiero invece lo slogan riferito al caffè che pronunciava una volta Nino Manfredi in un vecchio spot: più lo mandi giù e più ti tira su. Lo rivela un maxi studio durato oltre 10 anni che sarà presentato al prossimo meeting annuale dell'American Academy of Neurology, che si terrà quindi a marzo a San Diego. La ricerca è stata condotta appunto dai National Institute of Health in Research Trialog Park. Lo studio praticamente dice che le bibite aumenterebbero i rischi di depressione dal 30 al 38%. Viceversa invece il caffè, il consumo di caffè, sembrerebbe diminuire la possibilità di incorrere nel male di vivere del 10%. Sono state coinvolte quasi 264.000 persone che all'inizio dello studio avevano un'età compresa tra i 50 e i 71 anni. Dopo 10 anni di osservazione sono stati registrati oltre 11.000 casi di depressione tra i partecipanti. Incrociando i dati sul consumo di bibite, tè e caffè con quelli sulle diagnosi di depressione, è emerso che tra i grandi consumatori di bibite è stato riscontrato quindi un rischio di soffrire di depressione fino al 38% più elevato, quindi per coloro che bevono bibite o succhi in versione diet, in media 4 bicchieri al giorno. Il consumo di caffè invece, specie sia amaro, ridurrebbe il rischio del 10%. Quindi praticamente non dobbiamo bere tutte queste bibite gassate, perché fanno male, vabbè, lo si sa che fanno male alla salute, tutto quanto, fanno male quindi anche all'umore. Quindi al posto della bibita gassata, meglio un buon sano caffè. Senza esagerare, come ogni cosa, mi raccomando, senza eccedere, perché come tutte le cose tutto va dosato, mi raccomando. Quindi poi comunque bere tanta acqua è ancora meglio, diciamo così. Quindi bevete tanta acqua, che sicuramente, come dico sempre io, male non fa, giusto? Adesso arriva il nuovo, ancora singolo di Pino Daniele, Non si torna indietro. Ci sono cose che ci prendono e non ci fanno dormire. Will I find some peace today? What can I tell myself? Pensieri che nascono liberi come rondini in aprile. Will the clouds are far away? When can I see it at last? Ci sono occhi che tagliano il silenzio e mi piace davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. E che va tutto bene, anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che stiamo soli, ma non si torna indietro. When driven through the rain, da qui si sente l'Africa, mentre il mare abbraccia la città. And the people that we meet by chance while waiting for the train. In questo mare naviga la speranza, il mondo che verrà. Ma non si torna indietro. Ma non si torna. Mai. Ci sono cose che ci lasciano un segno evidente. And the winds of time today, when free from broken glass. Persone che incontri per caso e poi restano per sempre. And will the words of hate decay to let the past be past? Ci sono occhi che tagliano il silenzio. E mi piace parlarti di me davanti a un bicchiere di rosso, col sorriso più bello che c'è, non ti preoccupare. You have nothing more to lose. E che va tutto bene, anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che soli, ma non si torna indietro. Singolo di Pino Daniele insieme a Julie Luce, Non si torna indietro. A proposito di Pino Daniele, beh, domani 22 gennaio uscirà il DVD CD di Tutta nata storia Vai Mo live in Napoli, quindi che racchiude l'amore di Pino Daniele per la sua città. Nel frattempo noi abbiamo ascoltato il suo appunto nuovo singolo Non si torna indietro, devo dire molto molto bello, bello, mi piace. Poi Pino Daniele, devo dire che qualche canzone la gradisco molto, non è il mio cantante preferito, però ci sono delle belle canzoni sue che mi piacciono molto, devo dire, sì. Been around. Running Out of Time, saluto Simone che ce l'ha richiesta. E a proposito di Ozzy Osbourne, beh, una brutta avventura per lui, perché si è svegliato tra le fiamme, però fortunatamente è rimasto lievemente ferito nella sua villa di Beverly Hills. Il cantante dei Black Sabbath infatti ha perso in questo parte dei capelli e le sopracciglia, e tra l'altro si è riaperta anche una ferita precedentemente avuta ad una mano. A raccontare l'episodio è stata la moglie, Sharon, ad un programma televisivo. Ahimè, si sono dimenticati, sono andati a letto e hanno dimenticato la candela accesa, e quindi da lì insomma è divampato un incendio, e fortunatamente però diciamo stanno bene, quindi tutto bene quel che finisce bene, fortunatamente. Ma state attenti, mi raccomando, anche voi, non lasciate mai candele, cose accese prima di andare a letto, dovete spegnere tutto, mi raccomando, che poi succedono queste cose, non va bene, non va bene. I giorni vanno via senza lasciare un segno dove ritrovarli poi. Il tempo passa e non si può fermare finché ti chiederai perché. Se i sogni sono sempre da inseguire, di che sostanza è fatta la realtà? Un giorno poi ti sveglierai e forse allora capirai che l'amore che ho per te sarà per sempre.

my song. It's a serenade, so your heart can find me. And suddenly you're flying down the stairs into my arms, baby. Before I start going crazy, run to me, run to me, 'cause I'm dying. Nobody wants to be lonely. Nobody wants to cry. My body's longing to hold you. So bad it hurts inside. Time is precious and it's slipping away. And I've been waiting for you all of my life. Sono ancora con voi. Poco fa vi dicevo, no, di una notizia che vi dovevo dare, una notizia un po' curiosa. Beh, no, uno ogni tanto si chiede cosa sarà mai successo alle vecchie cabine telefoniche, no? Visto che ora tutti siamo dotati di cellulare, quindi raramente abbiamo bisogno di un telefono fisso per fare le chiamate. Beh, un collettivo artistico giapponese, pensate un po', ha ideato un curioso utilizzo, cioè trasformarle in acquari per pesci rossi. Il gruppo di artisti, che si definisce King Yobu, che in giapponese significa appunto club del pesce rosso, infatti ha riadattato alcune vecchie cabine telefoniche con un risultato decisamente insolito. La scelta del pesce rosso non è casuale, perché in Giappone infatti l'animale è considerato un portafortuna che porta felicità e prosperità. Quindi queste vecchie cabine telefoniche come acquari, belli. Io tra l'altro sto pure vedendo le immagini, devo dire che è molto molto bello vedere tutti questi pesci, questo bello, bello, bello. Questa è una bella idea, bravi, bravi giapponesi con queste idee, ci siamo. Sì, loro poi ne hanno sempre tante, proprio ne inventano una più del diavolo, come dire. E noi andiamo avanti, continuiamo, arriva il nuovo singolo della nostra Gianna Nazionale, La Nostra Storia. Per questa nostra storia, da anni in penitenza, anni in difesa, indipendenza, senza dirlo mai. E tu la chiami storia, ma sembra un labirinto. Senza cercarci, senza vederci, poi ritorniamo qua. In un secolo, in un'ora o in un attimo, è sempre il tuo sguardo contro il mio. Mi racconta la tua storia, che però diventa anche la mia. Mille anni fa, da domani

Sono ancora qui con voi, sono le 16.29, siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry sino alle 17. E su questa canzone di Nilla Zilli, L'amore femmina, saluto Patrizia, ciao Patrizia! Ma che caldo fa, oggi la città un martello nella testa che fa boom boom boom, pioggia isterica, sai che novità la gente che mi giudica e tu boom. Un po' così curiosette, no? Che vado sempre alla ricerca. Ne ho trovata una che proprio, devo dire, mi fa ridere tanto, perché mi parla di alcuni gadget che praticamente che ci faranno dimagrire, farebbero dimagrire. Per ora sono solo dei prototipi, ma presto potrebbero diventare amici, direi, o anche nemici della nostra linea e alleati preziosi per chi è in lotta contro l'ago della bilancia. Sono praticamente delle stoviglie intelligenti in grado di calcolare con precisione la quantità di cibo che ci apprestiamo ad ingurgitare, calcolarne le calorie, quindi, e avvisarci quando abbiamo superato la soglia di tolleranza. Voi immaginate, tin tin tin tin, hai superato il limite massimo. Naturalmente il lavoro sporco, tra virgolette, quindi ovvero la forza di volontà necessaria a seguire le indicazioni, resta sempre a totale carico nostro, ma come si suol dire, uomo avvisato, mezzo salvato. I due gadget più interessanti sono stati presentati all'International Chess 2013 di Las Vegas, la fiera dell'elettronica di consumo, e si tratta di un piatto in grado di calcolare quindi le calorie del pasto che ci apprestiamo a consumare e di una forchetta che consente anche di monitorare la quantità di cibo che effettivamente portiamo alla bocca e la rapidità con cui mangiamo. Nah, non ci posso credere. È forte sta cosa, no? Tu sei lì pronto a mangiare e spunta un segnale, arriva un segnale, tan tan tan, fermati, hai esagerato, non puoi, cioè incredibile sta cosa, cioè diventerà praticamente un incubo mangiare, sedersi a tavola e mangiare. Io consiglio sempre di mangiare tutto, però in dosi limitate, così almeno insomma uno può mangiare un po' di tutto, però piano, senza eccedere comunque, perché lo sappiamo, gli eccessi comunque fanno male. Però dai, non si può sedersi a tavola con un piatto e una forchetta così che ti conta le calorie, che ti bacchetta tra virgolette perché magari stai esagerando. va bene la tecnologia, va bene tutto, però dateci tregua. Comunque una buona e sana alimentazione, tanta attività fisica sicuramente sono gli alleati migliori. Questo è il consiglio che do, sì, che danno anche naturalmente tutti i medici. Che ne dite? Che ne pensate? Fatemi sapere. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.

fermiamoci qui. Liberi, ci sembra di essere più liberi. E intanto farò pugni contro il muro per averti ancora qui. The bottle disappear while I watch the Ogni cosa che tocchiamo e ci passiamo è un respiro che ci dà una vertigine. E noi siamo ciechi, siamo sordi come se non stesse succedendo niente. Abbiamo sarcasmo e tanta acidità per le persone che ci girano attorno, io e te, io e te. Ci regaliamo stima e rispetto, poi ci sfioriamo come amici con il cuore coperto. Le nostre storie segrete sono sbandierate strategicamente. Le nostre storie segrete. Paura di bruciare ora. Non accorgersi, capita, capita, sì, è mai capitato. Questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, quindi io vi do l'appuntamento a mercoledì, sempre a partire dalle 15 circa. Tra un po' vi lascio a CRM Happy Talent insieme in compagnia di Santi Genovese e naturalmente di tutti i suoi ospiti. Non mi resta quindi che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento, una buona serata e, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, alla prossima, un bacione.